Capitolo 11. Halle, Turingia, 30 aprile 1522. L'uomo che mi porta dal coniatore è una montagna, nuvola nera di chioma e barba che cingono la testa di un toro, mani enormi di minatore. Si chiama Elias, ha seguito Münzer da Zwickau, senza lasciarlo mai, come una grande ombra protettiva. Uno sguardo a pesare ciò che ha di fronte, pochi chili di carne cruda per uno spaccapietre dell'Erz. Uno studentello con la testa piena di congetture in latino che chiede di poter parlare con Magister Thomas, come lo chiama lui. «Perché cerchi il Magister?» mi ha chiesto subito. Ho detto di quando la voce di Münzer ha impietrito Melantone e dell'incontro con il profeta Stübner. «Se fratello Stübner è un profeta, io sono l'arcivescovo di Magonza!» ha esclamato con una risata. «La voce del Magister, quella sì che ti strizza le palle!» È una casa di artigiani. Tre colpi sulla porta e l'uscio si apre. Una giovane donna con un bambino al seno, la moglie di Elias, mi fa strada nell'unica stanza. Nell'angolo, un uomo si rade dandoci le spalle. Intona un canto popolare che ho già sentito in un'osteria. «Magister, qui c'è uno che è venuto da Wittenberg per parlarti». Lama in mano, si volta. «Bene, qualcuno mi spiegherà cosa succede in quella fogna». Una testa tonda, un grosso naso, occhi fiammeggianti che turbano un volto bonario. Senza esitare. «Nulla può accadere ormai. Carlo Stadio è stato esiliato». Annuisce tra sé. Una conferma. «Con chi credeva di avere a che fare? Dietro Fra Martino c'è Federico». Agita il coltello con rabbia. «Il buon Carlo Stadio. Pensava di fare le riforme in casa dell'elettore e col permesso di frate Menzogna in persona. In un serraglio di borghigiani e dottorini che pensano alla sorte degli uomini come un frutto dei loro calamai. Non saranno le penne a scrivere le riforme che attendiamo». Per la prima volta sembra rivolgersi a me. «Lutero e Melantone hanno esiliato anche te?» «No, me ne sono andato io». «E perché sei venuto qui?» Il gigante Elias mi porge uno sgabello. Siedo e comincio la parabola del buon Carlo Stadio, la farsa del rapimento di Lutero, l'arrivo dei profeti di Zwickau. Ascoltano con attenzione e capiscono la mia frustrazione, la delusione per la riforma di Lutero, l'odio per vescovi e principi maturato negli anni. Le parole sono quelle giuste e vengono alle labbra con facilità. Annuiscono gravi. Münzer ripone il coltello sulla mensola e comincia a vestirsi. Il gigante non mi guarda più con malcelata derisione. Poi, il maestro degli umili agguanta il mantello ed è già sulla porta. «Una giornata piena di cose da fare», sorride. «Continuerai il tuo racconto per strada». Mentre parlo, so che non ci separeremo.